Bentornati alla Revancia, siamo qui in diretta su Radio Wombat. Buonasera a tutti, come di consueto vi ricorderò dove potete trovare Radio Wombat: sul sito wombat.noblogs.org, e molto probabilmente già lo conoscete perché se ci state sentendo in streaming siete su quel sito lì, oppure potete collegarvi ai nostri social: twitter.com/radiowombatfi per il sito Twitter. Se volete cercarci su Facebook, ci trovate a facebook.com/radio-wombat-firenze, oppure ci mandate una mail a posta@wombat.net. Siamo qui in diretta, appunto, come dicevo precedentemente, dopo il consueto appuntamento di Fuoco alle Polveri. Siete alla Revancia, trasmissione sul punk e dintorni, e stasera andiamo a parlare di un sottogenere che a me piace tanto, che è il neocrust. Alcuni di voi diranno: che cazzo fa la trasmissione sul neocrust, cioè il nuovo crust, falla prima sul crust. È la trasmissione mia, decido io, quindi a me piace, e ho voluto dedicare uno speciale, diciamo, a questo genere. Alcuni di voi diranno: che minchia è un neocrust? E niente, praticamente il neocrust è un'evoluzione del crust, che si basa principalmente su un tempo di batteria soprannominato di beat, tumpa tumpa. E niente, praticamente questo genere nasce negli anni 80, successivamente verso la fine degli anni 90, inizio 2000, iniziano a convergere dentro di esso diverse influenze. Principalmente si può dire che ci sono quindi due diramazioni del neocrust: una più vicina al metal melodico, tra virgolette, al death metal svedese, mentre l'altra è un po' più vicina allo sludge, al post rock, eccetera eccetera. Io, insomma, praticamente per fare questa puntata sono stato un po' a scervellarmi su che pezzi mettere, perché comunque c'è tanta roba, c'è tanti gruppi che mi piacciono, eccetera eccetera. Non sapevo più o meno da che parte andare a parare, quindi ho detto: sai che, mettiamo due pezzi. Stasera quindi sentirete due pezzi che in totale durano un'ora, uno 40 minuti e l'altro 20, e sono di due gruppi. Vi faccio l'introduzione del primo gruppo che sentirete stasera. Quale ho deciso di mettere? Aspetta, sì. Ma andiamo con l'Ictus, vai. In realtà ho deciso ora. Ci sono già? Sì, qui ci sono. Bene. Niente, praticamente il primo pezzo, niente, è il mio marchio di fabbrica, se non si era capito. Il primo pezzo che sentirete sarà un pezzo di 40 minuti dell'Ictus. Sono un gruppo, erano, perché si sono sciolti, come anche l'altro gruppo che sentiremo dopo. Un gruppo spagnolo, galiziano, nato nel 2004 e scioltosi nel 2007, dopo, tra l'altro, dopo un incidente semimortale che il gruppo ha avuto mentre era in tour in vicino, dove cacchio erano? Ah sì, in Bielorussia, no? In Polonia, non mi ricordo bene. Insomma, erano in giro, hanno avuto questo incidente e dopo questo incidente hanno smesso di suonare. Il pezzo che sentiremo è un pezzo di 40 minuti che rappresenta un po', diciamo, il filone neocrust più vicino e legato al death metal melodico. In genere i gruppi crust, neocrust, che sono vicini a questo genere sono svedesi anch'essi. Invece loro erano spagnoli, ma molto amanti delle melodie, dopo sentirete perché, anche se ci sono parti molto metal. E questo disco qui esce nel 2007, è un disco in cui c'è un pezzo solo, che si chiama Imperium. La canzone si chiama Imperium e parla praticamente degli Stati Uniti d'America, cioè gli Stati Uniti d'America vengono paragonati più o meno a un impero. E adesso ce la sentiremo, 40 minuti, tutti felici, tutti contenti, Imperium dell'Ictus. cuando la inmunidad de calor en detrimento de las libertades de los ciudadanos. ¿Cómo podríamos perdonar la negativa a la reunificación de Alemania en 1952? La devastación medioambiental humana en los conflictos de Indochina, el apoyo político y logístico a los regímenes dictatoriales de Sudamérica, Asia y África, la bipolarización del mundo durante la Guerra Fría, el aprovisionamiento de equipos paramilitares y escuadrones de la muerte con cargos a gobiernos democráticos popularmente instaurados. Terrorismo convencional, bloqueo ilegal y humano cubanidad, apoyo incondicional a las políticas españolistas del gobierno y la ley palestina, utilización de armas nucleares contra Hamas. Bentornati qui alla Revancia. Questi erano Lictus con Imperium, un pezzo che dura poco, appunto solamente 40 minuti. E adesso andiamo avanti e parliamo dell'altro pezzo che metterò dopo. Anche questo sarà corto, 20 minuti e 31 secondi. Questi invece sono i Follow the Frafa, un gruppo inglese nato nel 2005 e si è sciolto nel 2009. L'intento del gruppo era quello di registrare una trilogia, quindi tre dischi, sulla base di un romanzo che si chiama La collina dei conigli, che viene un attimo rivisitato in chiave vegana, antispecista e animalista. Il pezzo che andremo a sentire è del secondo disco, che è uscito nel 2007, che si chiama Elil, ed è la prima traccia, e si chiama Beyond the Veil. Follow the fra, Beyond the Veil. siamo a fine di questa trasmissione, avete sentito i Follow Efrafa, adesso vi saluto ricordandovi come sempre dove potete trovarci: il sito di Radio Wombat, wombat.noblogs.org, oppure su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, su Facebook, classico facebook.com/radio-wombat-firenze, oppure alla mail posta wombat@insibere.net. Questa era la revancia, ci sentiamo lunedì prossimo con un'altra croccante puntata in cui ci sarà un ospite da Roma e un co-ospite, co-conduttore da Firenze. Buonanotte a tutti, da Retta e Wombat, bella!